2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre vi do alcune coordinate per raggiungerci, per dialogare con noi e partecipare alla discussione con i nostri ascoltatori: Twitter, Facebook oppure anche la nostra email 2024@radio24.it. Questa settimana Apple ha riunito in California gli sviluppatori per annunciare una serie di novità. Come accade sempre per tutte le aziende, ci sono alcuni momenti importanti durante l'anno in cui c'è la famosa conferenza per gli sviluppatori, che poi in realtà è il motivo anche per fare una serie di annunci. Il più importante per tutto il mondo degli sviluppatori di applicazioni è sicuramente il nuovo sistema operativo iOS 11, che sarà disponibile per tutti dall'autunno. Se siete interessati, però, è disponibile già da questi giorni per, ovviamente, per gli sviluppatori, ma tutti coloro che lo volessero installare con prudenza, visto che stiamo parlando di una versione beta. Ci sono ovviamente molte novità, così come ci sono ovviamente novità per iOS 11, moltissime, così come ci sono novità per i Mac, per Apple Watch e anche un nuovo iPad Pro. Un'altra delle novità che arriverà però a dicembre, ma non in Italia, si chiama HomePod e ci dà un po' il senso del mercato, perché vede Apple inseguire Google e Amazon. Allora, si tratta di un diffusore audio grande come o poco più di un barattolo di marmellata, che incorpora l'assistente virtuale Siri e tenterà di fare concorrenza a due altri prodotti di cui si è parlato molto, perché sicuramente cambieranno anche molte dinamiche della vita di tutti noi. Parliamo di Google Home e Amazon Echo. Sostanzialmente sono prodotti abbastanza simili, grandi appunto come un barattolo di marmellata, una confezione di farina di zucchero da un chilo, una roba del genere. Sono cose che vanno messe in casa, collegate alla rete, hanno dei microfoni che ascoltano quando noi parliamo, diciamo che i microfoni ascoltano sempre, quando noi li attiviamo si attiva una comunicazione. Sono assistenti virtuali, assistenti della famiglia, possiamo fare delle domande e ricevere delle risposte. Ovviamente i sistemi di intelligenza artificiale non sono ancora super evoluti, ma siamo agli inizi di una nuova era. Però questi sono prodotti che non sono ancora disponibili in Italia, e anche HomePod, come abbiamo detto, arriverà non prima del 2018 nel nostro paese, perché sarà disponibile in dicembre negli Stati Uniti e in pochi altri paesi. Però ci dà un po' il senso di dove stanno andando le aziende di tecnologia. Ovviamente Apple non poteva solo rincorrere gli altri come Google e Amazon, e ha fatto qualche cosa in più. Quindi, oltre alla parte di intelligenza artificiale, cioè Siri, che risponde alle nostre domande e dà delle risposte, HomePod è di fatto un diffusore audio molto sofisticato, ha un woofer 7 tweet e un sistema, soprattutto la parte interessante, è un sistema con 6 microfoni per la correzione acustica in tempo reale. Cioè, che cosa fa questo sistema? Come molti di voi sapranno, non è che le nostre case sono luoghi dove suonare musica attraverso diffusori audio sia, diciamo, l'ambiente migliore per suonare la musica, perché ci sono rifrazioni, eco, riverberi, cose del genere. Gli ambienti andrebbero trattati, e allora per creare un'esperienza sonora migliore ci sono dei sistemi come quello che appunto è stato presentato da Apple, questo HomePod, che ascoltano con dei microfoni le rifrazioni sonore, il risultato del suono che viene emesso, e correggono, fanno un'equalizzazione del suono adatta a quella sala. Un po' come avere un tecnico del suono in miniatura automatico che crea una riproduzione sonora adatta a quella sala. Uno lo sposta, magari lo mette in bagno dove ci sono le piastrelle, quindi l'audio rimbomba, e questo sistema si adatta automaticamente e ricrea un suono ascoltabile e gradevole. Ovviamente il risultato migliore sarebbe in una sala trattata acusticamente, dove magari ci sono delle tende per bloccare le rifrazioni. Tra l'altro questo è un tema molto bello e interessante di cui potremo anche parlare a 2024. Però laddove non la resa sonora della sala non è eccezionale, beh, questi sistemi cercano di correggere questi problemi che abbiamo, direi, in quasi tutte le case, comunque in tutti gli ambienti dove ci sono pareti con rifrazioni. Una cosa che è quotidiana: quante volte andiamo in un ambiente dove magari c'è della musica e sentiamo male? Beh, molto probabilmente non perché l'impianto sonoro è fatto male, ci sono anche quelle situazioni, ma molto probabilmente, molto spesso, perché la sala, il locale dove siamo all'interno, non ha nessun tipo di trattamento acustico, cioè non è stato progettato e pensato per l'acustica. Questo vale anche quando ci sono molte persone e il suono rimbomba e ci affatichiamo e magari usciamo da una sala dopo un po' di tempo e tiriamo un sospiro di sollievo. Prima parlavo di HomePod, questo nuovo prodotto presentato da Apple con molto anticipo, visto che uscirà verso la fine dell'anno negli Stati Uniti e in altri paesi, come presumibilmente l'Italia, all'inizio del 2018. Dicevo che sicuramente è un prodotto sofisticato perché ha questo sistema di correzione acustica, però devo dire che non è un unicum, ci sono altri sistemi che hanno le stesse caratteristiche, come ad esempio i Sonos, che probabilmente nei sistemi di diffusione multistanza o comunque sistemi che si connettono in Wi-Fi, beh, non l'abbiamo detto, ma anche il nuovo HomePod, così come Google Home e Amazon Echo, si collegano in Wi-Fi alla rete locale. Però i Sonos, così come altri prodotti, hanno anch'essi questo sistema di autocorrezione molto interessante. Non è una novità assoluta, ma sicuramente ancora poco presente nelle case, e probabilmente la diffusione di questi sistemi con incorporato un assistente virtuale diffonderà sempre più anche sistemi multiroom per l'audio. FAPAV, che è la federazione che si occupa di antipirateria, ufficialmente la federazione che si occupa di tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, ha fatto realizzare da Ipsos un'indagine per descrivere un fenomeno che riguarda ancora una buona fetta della popolazione anche in Italia. Il 39% degli italiani ha guardato illegalmente film, serie televisive, programmi, TV almeno una volta nel 2016, pensate, quasi il 40% degli italiani. I film sono il contenuto più piratato, anche se con un leggero calo rispetto a 6 anni fa. Ovviamente l'industria deve rendere la fruizione più semplice, deve semplificare di molto tutto il set normativo che c'è attorno al mondo del video in modo particolare, anche se purtroppo c'è una cultura ancora molto diffusa che non considera il furto di contenuti. Magari uno lo fa in casa, nessuno ti vede, e questo non viene considerato un reato, o anche se lo si sa, uno dice vabbè, ma probabilmente non mi prendono. Poi ogni tanto succede seppur raramente, qualcuno entri all'interno di una indagine. Dipende sempre da quanto desiderio c'è da parte dell'industria di intervenire. Ultimamente si sta intervenendo soprattutto sul lato di chi diffonde questo tipo di contenuti, ma anche chi li utilizza ogni tanto viene pescato nella rete. Questa consapevolezza, comunque, secondo questa indagine FAPAF Ipsos, è aumentata. È stato anche delineato un profilo del pirata tipo che, da un certo punto di vista, smentisce alcune cose che si dicono. È prevalentemente, comunque molto spesso, un uomo lavoratore, quindi una persona che ha un lavoro, una posizione economica, è molto spesso in posizione direttiva o un lavoratore autonomo, ha un titolo di studio mediamente più elevato della media degli italiani, e quindi, come recita lo stesso comunicato di FAPAV, questo identikit smonta l'accezione comune che la pirateria deriva da oggettive difficoltà economiche. Comunque non c'è solo la pirateria di contenuti audio-video, c'è anche un più vasto mondo di contraffazione digitale che viene diffusa via internet, oppure contraffazione di altro tipo, cioè fisica tradizionale, che però sfrutta i canali digitali, cioè sfrutta la rete internet. Allora, per parlare di questo, che è un mondo complesso ma anche molto affascinante tecnologicamente parlando, è con noi Luca Vespignani, che è l'amministratore delegato di DCP, Digital Content Protection. Benvenuto a 2024. Grazie, Enrico. Dunque, Luca, diciamo subito che la vostra è un'azienda che si occupa della tutela dei contenuti, però spiegaci bene che cosa fate grazie e utilizzando la tecnologia. Sì, DCP nasce un paio d'anni fa, nasce sulla scorta dell'esperienza di FPM. FPM è la storica federazione dell'industria musicale che ha sempre tutelato da 20 anni a questa parte i contenuti dell'industria musicale, e nasce uscendo anche dal mondo copyright, quindi tutela del copyright e tutela dei marchi in rete, una sorta di quella che oggi viene chiamata brand protection. La grande novità è che affianca gli strumenti, quelli tradizionali sempre utilizzati, quindi le azioni civili, le azioni penali, l'assistenza tecnica alle forze dell'ordine, a tutte quelle istituzioni che a vario titolo tutelano il copyright, beh, a tutto questo affianca la tecnologia. Quindi si va pesantemente sulla tecnologia per contrastare la diffusione di contenuti tutelati da copyright, ovviamente diffusione illecita, o la vendita di materiali contraffatti. Tutto questo lo fate con la tecnologia, e una cosa che mi affascina di questo mondo, mi sorprende spesso, è quanto questo sistema, poi parleremo di che cosa significa tecnologia, sia complesso. È una cosa complicatissima, giusto? È estremamente complesso, però per la prima volta, sappiamo tutti che quella della lotta alla pirateria e alla contraffazione è stata una grande rincorsa, in cui i titolari dei contenuti erano perennemente in ritardo. Oggi, grazie alla tecnologia, invece, forse per la prima volta viaggiamo a pari con i pirati e i contraffattori. Sono sistemi molto complessi, sono un insieme di sistemi, in parte verticali, in parte proprietari, che fanno sostanzialmente 3 cose. Innanzitutto fanno un monitoraggio profondo e massivo del web. In seconda battuta gestiscono in maniera automatica e autonoma i risultati di quei monitoraggi e attivano le procedure per la rimozione dei contenuti o per l'eliminazione delle aste degli annunci. E in terza battuta creano la cosiddetta business intelligence, cioè lavorano tutta quella mole di dati che proviene dal monitoraggio e dalle rimozioni e consentono, addirittura con dei principi la cosiddetta machine self-learning, cioè di autoapprendimento dei sistemi, consentono di migliorare continuamente questi sistemi. È ovviamente un sistema molto complesso. Molto complesso, sì. Quando parli di contenuti parli di audio, video e di marchi, giusto? Assolutamente. Parlo, anche di prodotti. Sì, parlo tutto il mondo copyright, che vuol dire musica, cinema, vuol dire software, vuol dire videogiochi, vuol dire editoria, e mondo marchi vuol dire qualsiasi oggetto contraffatto, oppure anche abusi semplici nel marchio, o addirittura diritti della persona, diritti d'immagine. Il sistema a monte neutro, cioè si può impostare la ricerca come si vuole. Poi gli strumenti, poi ovviamente di tutela, sono diversi a seconda del settore. Certo, quindi tu mi stai dicendo che intanto il monitoraggio è mondiale. Assolutamente. Su tutto sì. Il web. Sì. Quindi mi stai dicendo che un detentore di diritto, che sia o italiano o straniero, può rivolgersi a voi, e che sia, che ne so, una borsetta che è stata messa in vendita in Indonesia, voi ve ne accorgete? Sì, assolutamente. Sì, il sistema, ripeto, è neutro e gli obiettivi di ricerca sono potenzialmente limitati. La ricerca può essere fatta su siti, blog, forum, piattaforme di scambio peer-to-peer, piattaforme di video streaming, social network, tutti i social network, a prescindere da territorio e da linguaggio. Ovviamente poi bisogna avere, come dire, in azienda le risorse adatte a fare questo tipo di lavoro. Per esempio, noi abbiamo dovuto integrare le persone di lingua madre cinese, ovviamente, visto che il fenomeno contraffazione marchi è per un buon 70-80% legato al mercato cinese, quindi ovviamente per dialogare con queste piattaforme è necessario avere delle risorse di lingua madre. Come funziona tutto il sistema automatico che tu citavi? Perché io immagino che se, adesso ho fatto l'esempio della borsetta contraffatta in Cina, ma questo vale anche per siti di streaming video oppure che hanno canzoni piratate, come funziona il sistema automatico? Perché immagino che alcune cose possono essere automatizzate, altre no. Certo, la ricerca può essere totalmente automatizzata, nel senso che si costruiscono dei crawler, si chiamano robot in termine tecnico, di ricerca che vanno a cercare sulla base sia di keywords che per esempio anche di immagini, e vanno a cercare puntando su delle piattaforme che vengono decise da noi. Possono essere 20, 50, 100, 1000, questo è indifferente. Ovviamente il sistema queste ricerche le fa con una potenza di calcolo estremamente alta. Sì, è un po' come se un uomo andasse a navigare sul web, solo che la macchina lo fa più velocemente, ne può fare 10.000. È come mettere 50.000 persone che fanno quel lavoro. Sì. Tieni conto che il sistema, dal punto di vista della potenza di calcolo, è virtualmente illimitato. Se io aggiungo unità di calcolo, adesso non sto a entrare nei dettagli del sistema, e banda e storage, io posso fare un numero illimitato di interrogazioni. Noi in questo momento viaggiamo a decine di migliaia di interrogazioni ogni ora sul web per fare queste ricerche. E poi il sistema è agganciato a un secondo sistema che in automatico prende i risultati e attiva le procedure di rimozione, che sono ovviamente diverse da piattaforma a piattaforma, da contenuto a contenuto, compila in automatico delle diffide, vengono inviate in automatico, compila in automatico dei form online, dove è prevista la compilazione dei form, oppure attiva quella che è la procedura necessaria e prevista da quel tipo di piattaforma per intervenire a tutela del copyright. Quindi ci stai dicendo che nel mondo molte piattaforme che mettono a disposizione degli utenti o prodotti, quindi commercio elettronico, o contenuti, quindi video e audio, hanno comunque delle procedure di segnalazione tali per cui se tu segnali quei contenuti vengono rimossi in maniera automatica. Assolutamente sì, nel senso che la maggioranza di queste piattaforme sono piattaforme che teoricamente lavorano in un ambito legale. Poi lasciamo stare il fatto se lucrino o meno, ben consapevoli del fatto che ci sono terzi che mettono il materiale illegale su quella piattaforma. Però comunque devono rispondere ad alcune norme comunitarie o nazionali che impongono a quel soggetto, una volta avvertito dell'illecito, di intervenire. Noi siamo quelli che li avvertiamo dell'illecito, a quel punto loro devono mettere a disposizione delle procedure di rimozione, procedure che possono cambiare da piattaforma a piattaforma ovviamente, però anche quelle vanno gestite in maniera automatica perché stiamo parlando di centinaia di migliaia di diffide mandate ogni singolo giorno, ovviamente umanamente non si può, quindi c'è un sistema automatizzato. È veramente incredibile questa cosa, cioè per chi non conosce questo mondo per voi sarà normale. All'inizio non tanto, adesso l'è diventato, ma all'inizio è stata un'autentica rivoluzione anche per noi ovviamente. I vostri clienti sono italiani, nazionali prevalentemente o anche internazionali? No, anche internazionali, mondo copyright abbiamo tutta la musica ovviamente, perché da lì nasciamo e lì continuiamo ad operare. Nel mondo dei marchi ci sono marchi nazionali e internazionali, ovviamente abbiamo anche la fortuna di lavorare in un paese in cui il marchio è forse uno degli asset principali proprio del nostro paese. Certo, no? Quindi dice tanto del Made in Italy, il marchio è il cuore del Made in Italy, certo. Quali sono i limiti della tecnologia? Se esistono, perché magari invece i limiti sono legali o geografici, perché non so quanta efficacia abbia una segnalazione su un sito dell'Est Europa, magari che non fa parte dell'Unione Europea. Hai colto perfettamente il punto. In questo momento ti devo dire che i limiti della tecnologia sono molto pochi, virtualmente non ci sono, si tratta soltanto di aumentare la capacità, no, di lavoro di questi sistemi. Quindi la tecnologia si accorge, cioè li becca tutti. Sì, li becca potenzialmente tutti, poi ovviamente dietro alla tecnologia ci vuole sempre comunque il fattore umano, nel senso che è fondamentale conoscere come si muove quel fenomeno. Perché ovviamente chi vende materiale contraffatto, mette a disposizione materiale tutelato dal diritto d'autore, si accorge di questi interventi a tutela e cerca in qualche maniera di ingannare, no, questi sistemi di ricerca. Quindi è fondamentale che ci sia poi l'umano che corregge e fa evolvere questi sistemi. In parte lo fanno loro stessi i sistemi perché sono in grado di farlo. Il vero limite è giuridico, se vogliamo. Nel senso che ovviamente noi possiamo mandare anche 50 milioni di diffide al giorno, ma se non c'è una norma alla base che in qualche maniera obbliga quell'intermediario online a rimuovere sulla base della notifica, ecco che casca tutto il sistema. Queste norme ci sono in questo momento, fortunatamente. Noi stiamo chiedendo, in questo caso come industria musicale, che vengano addirittura rafforzate. ovvio che se non ci fosse questo obbligo potremmo avere tutti i sistemi tecnologici più evoluti del mondo. Sì. Beh, esisteranno immagino anche gli, come si dice, tra virgolette, gli stati canaglia, cioè quelli nella blacklist con i quali è difficile ottenere risultati. Assolutamente sì, lo è stato per lungo tempo la Cina. Adesso devo dire che l'atteggiamento è un po' cambiato. Diciamo che non sono le piattaforme più collaborative del mondo, però la collaborazione c'è, anche perché è necessario che in qualche maniera collaborino. La situazione rimane critica soprattutto con alcune piattaforme dell'Est Europa, anche se progressivamente sta migliorando. Direi che non ci sono grossi buchi neri in questo momento, nel senso che è difficile anche che il contraffattore scelga una piattaforma di vendita posizionata in qualche remota isola del Pacifico, perché poi non avrebbe neanche eccessiva visibilità. Quindi. Sì. Senti, ti chiedo un parere sulla sensibilità delle aziende italiane per quanto riguarda la tutela dei marchi, perché mi sembra abbastanza chiaro che l'industria della musica, che forse è stata la prima a occuparsi di questo tema e di occuparsi di tecnologia, cioè sfruttare la tecnologia per proteggersi e cercare di combattere i cattivi, anche quella del video poi è seguita. Invece il tema di cui anche la politica parla, cioè della tutela dei marchi, tu citai prima il Made in Italy, ecco, le aziende, alcune anche medio-piccole che hanno marchi straordinari, si sono accorte e quindi hanno capito che la tecnologia può essere un fattore di difesa importante, o facciamo fatica? Nel senso che i grandi marchi sì, si sono accorti, anche perché hanno un po' seguito quello che ha fatto l'industria musicale, no? L'industria musicale, se tu ci pensi, molti anni fa è andata pesantemente sul digitale anche dal punto di vista del commercio legale. E qui faccio un piccolo inciso: le tecnologie a tutela non servono a nulla se poi non c'è una solida e sana offerta legale digitale, ovviamente. D'accordo, sono d'accordo. E la musica insegna un po' da quel punto di vista. Sì, diciamo che oggi forse la musica è quella che ha espresso meglio questo, questo equilibrio. Non si può pretendere. Non capisco perché uno debba piratare quando ci sono delle piattaforme di streaming che hanno 30 milioni di brani, ecco. Assolutamente. E sono anche gratis per una certa parte. Quindi. Esatto. Non si può pretendere di avere il massimo della tutela quando poi non si offre in qualche maniera al consumatore, no, anche l'opportunità legale. I grandi marchi sono andati anche loro pesantemente sul digitale in termini proprio di vendita di prodotto. I piccoli marchi un po' meno. I piccoli marchi scontano un po' anche quella che forse tu conosci meglio di me, quella che è un po' la scarsa alfabetizzazione informatica, no, in Italia. E quindi c'è poca consapevolezza dei rischi, da un lato, che si corrono sulla rete, ma anche delle opportunità poi, no, che la rete offre. Sì. Quindi c'è un po' di carenza. Qual è il vostro rapporto e ovviamente il rapporto poi di tutta l'industria che produce contenuti, che detiene marchi, con i cosiddetti intermediari, cioè piattaforme, anche motori di ricerca? Perché è ovvio che se io non trovo un sito che vende cose false, faccio poi fatica a comprare cose false. Quindi diciamo, il primo passo della anticontraffazione parte da lì forse. Beh, ti posso parlare dell'esperienza musicale, dell'industria musicale. Oggi i principali clienti mondiali dell'industria musicale sono Apple e YouTube. L'industria musicale oggi fa più della metà del suo fatturato grazie al digitale. Le industrie si sono totalmente riconvertite, no? Sono passate da produttori fisici di quel piccolo oggetto di plastica, no? Che era il CD, sono passate ormai a delle cosiddette service company che offrono soprattutto servizi e una gestione globale dell'artista, soprattutto nel mondo digitale. Quindi c'è la volontà di andare totalmente sul digitale. Il rapporto con le piattaforme è un rapporto di odio-amore in qualche maniera, no? Da un lato sono i nostri principali partner commerciali, vogliamo lavorare con loro, ci sono però dei problemi da risolvere. Il tema caldo nel momento è quello del cosiddetto value gap, cioè il fatto che gli artisti e le case non vengono adeguatamente remunerati per quello che era lo sforzo industriale nel mettere a disposizione i contenuti digitali. Non dimentichiamoci che una piattaforma come Spotify paga 20 volte quello che paga per esempio YouTube per lo sfruttamento di un brano musicale. Infatti Spotify non è ancora in attivo. Sì, però ci sta arrivando, crescendo a livelli esponenziali. Sì, sì. Però insomma, il modello Spotify è decisamente il modello da seguire. Poi non c'è solo Spotify, c'è Deezer, certo. Apple Music. Quindi il problema da risolvere adesso è quello di riequilibrare il mercato, no? Fra quelli che producono questi contenuti e quelli che in qualche misura se li trovano già pronti e li sfruttano pubblicitariamente, guadagnando più dell'industria discografica. Quindi il rapporto è appunto odio, amore, sì, necessità di averlo, ovviamente necessità di svilupparlo nella massima maniera possibile. E esiste una sorta di collaborazione per l'antipirateria, l'anticontraffazione, perché le piattaforme che permettono agli utenti di caricare contenuti, che ne so, YouTube, giusto per farci capire, si sono sempre difese dicendo: ah, noi siamo una piazza libera, tutti possono venire a esporre la propria merce, tra virgolette, cioè gli utenti possono caricare quello che vogliono. Poi, se voi detentori dei contenuti segnalate che c'è qualche cosa che non va, noi provvediamo a rimuoverlo. Questo è un po' il meccanismo, detto molto semplicemente. Sì, questo è il meccanismo. Si sono, quasi tutte le piattaforme si sono sempre nascoste dietro al concetto del safe harbor, cioè nella normativa, parzialmente la normativa americana e sicuramente la normativa comunitaria, cioè nella direttiva e-commerce. Il cosiddetto hosting provider ha un ruolo di totale neutralità, cioè non è responsabile fino al momento in cui viene avvertito dell'illecito. Qui c'è un primo punto, e cioè: ma questi hosting provider sono veramente hosting provider neutrali, oppure sono da considerare hosting provider attivi nel momento in cui indicizzano, fanno piani pubblicitari, sistemano i contenuti, suggeriscono i contenuti agli utenti? E questo è un punto che non è ancora stato smarcato. Cioè, diciamo che la verità è che sono attivi, però ovviamente attivi. Loro cercano di non far apparire che sono attivi, perché poi questo comporta a cascata tutta una serie di obblighi, no? Assolutamente, una serie di obblighi che parzialmente sono stati ribaltati da una recente sentenza del Tribunale di Torino, che è rivoluzionaria da questo punto di vista. Perché come funziona oggi il lavoro di tutela? Se io trovo 5.000 violazioni dello stesso video, della stessa opera, io devo segnalare 5.000 volte con 5.000 URL diversi, e ogni volta segnalarlo puntualmente. Se vengono ricaricati, li devo risegnalare di nuovo. Cioè, quindi, se io caricassi, che ne so, il film Titanic e altre 4.999 persone lo caricano, stesso film, Io devo segnalare 5.000 URL diverse, e non solo. Se appena le rimuovono, tu e gli altri 4.999 li ricaricate, le devo risegnalare nuovamente. A quel punto c'è l'intervento della piattaforma, che è obbligata per legge. La sentenza di Torino invece che cosa ha fatto? Ha detto: no, il titolare del diritto è obbligato a segnalartelo la prima volta, ma a quel punto tu sai che quel contenuto è di proprietà di quel titolare, e allora devi attivarti in tutte le maniere possibili per prevenire il futuro caricamento di quell'opera. Questo ovviamente sarebbe una rivoluzione copernicana dal punto di vista della tutela dei diritti. Adesso è una sentenza civile, vedremo che cosa succederà poi in futuro. Sì, sì, molto interessante. Ricordiamo agli ascoltatori che uno potrebbe domandarsi: ma come fa la piattaforma ad accorgersi che proprio quel contenuto è stato caricato tante volte? Perché ci sono dei sistemi tecnologici che, grazie ad una serie di, chiamiamole, filigrane digitali, riescono a capire che quel contenuto è proprio quello che è stato segnalato. Assolutamente, anzi, sì, sì, YouTube si riconosce tutto. Provate, sì, Shazam sul vostro smartphone, lo mettete vicino a, che ne so, a una cassa che diffonde musica, e vi riconosce con lo stesso sistema, fondamentalmente riconosce una canzone precisa. E fra parentesi, YouTube poi si è sempre vantato di avere forse il miglior sistema da questo punto di vista. Parlo di riconoscimento video, il cosiddetto Content ID, così si chiama il loro sistema. Quindi, avendo in casa il cosiddetto reference file, quindi un file originale di quell'opera, è in grado di fare un match live con il contenuto che viene caricato, e nel momento in cui viene identificato come stesso video, ovviamente poi si può, cioè, decidere se abbatterlo. Senti, a proposito di live, cioè di contenuti che vengono trasmessi in diretta, ultimamente con la possibilità su alcune piattaforme di trasmettere dal proprio smartphone contenuti in diretta, io vado al concerto e lo posso, non posso, diciamo, perché è coperto da diritto, però tecnicamente lo posso fare. Come fate a beccare tutti questi che ne so, uno che va alla partita e trasmette la partita di calcio in diretta? Allora, questo è effettivamente ancora un po' il settore più critico dal punto di vista dell'intervento, e lo è molto banalmente per una questione di tempi. Voglio dire, io mi accorgo, siccome appunto, come ho detto, la norma prevede che ci si accorge della violazione, la si segnala nella maniera opportuna e la piattaforma è obbligata a intervenire. Però la partita dura 2 ore. Esatto, magari la segnalo all'inizio del secondo tempo, ormai il danno è fatto. Quindi questo è effettivamente un po' il settore più critico. Però attenzione, perché si stanno testando, e le stanno testando molte piattaforme anche molto famose, delle tecnologie che sono in grado di fare quel match che dicevo di YouTube in tempo reale. Quindi hanno in casa il flusso video originale e sono in grado di matcharlo automaticamente e in diretta con tutti i flussi video che vengono caricati. E nel caso che venga riconosciuto, no, l'identità del video, a quel punto viene bloccato il flusso video illegale. Non sono ancora pubblici, non sono ancora a disposizione, però insomma, è l'ennesima conferma che là dove non ci si può arrivare con strumenti giuridici, con azioni penali civili, ci si può arrivare oggi con la tecnologia. Molto interessante. Ti faccio un'ultima domanda. Ci sono molti amici, conoscenti, colleghi mi continuano a dire, ma poi in rete si trova di tutto, cioè si continua a trovare musica, si continuano a trovare video, film, eccetera, si continuano a trovare altri contenuti anche in diretta. Ma com'è possibile che, se la tecnologia permette di individuare, intercettare tutti, c'è una collaborazione internazionale tra piattaforme, ci sono leggi ormai abbastanza strutturate, e com'è possibile che ci sia ancora tantissima pirateria in giro? Perché a monte nessuno la elimina autonomamente. Tu dici un po' come ci sono i ladri, anche esatto. Se c'è... Sì, no, ma poi c'è un problema di riconoscimento da parte dei titolari dei diritti che l'investimento fatto nelle tecnologie di protezione non è un investimento perso, è un investimento sul futuro. Quindi chi lo fa, per esempio la musica, oggi è molto più difficile trovare musica online, se ne trova molto meno. Altri settori, devo dire, che sono andati molto meno pesantemente su questa attività di protezione, di rimozione, monitoraggio e rimozione dei contenuti, e quindi c'è più materiale a disposizione. E poi ci sono ovviamente fenomeni di nicchia, come per esempio il live streaming, dove stiamo ancora cercando le soluzioni tecnologiche e giuridiche migliori per intervenire sul fenomeno. Ecco, comunque in generale, se guardiamo a tutti i contenuti, la pirateria è in calo? Nella musica sicuramente sì, sicuramente. Credo che sia abbastanza stabile sul cinema. Nei videogiochi, per esempio, videogiochi è decisamente in calo. È in calo, per esempio, anche sul software. Poi qui vabbè, c'è anche da parlare che anche quella è un'industria che è in trasformazione, no? Quindi col passaggio dal possesso del pacchetto software al cloud, quindi è un po' quello che è successo nella musica per certi versi. Lì la pirateria sarà sempre più complicata. Sarà sempre più complicata. Perché se tutte le volte che io accedo a un software che poi non è più un software ma è un servizio live, cioè un servizio online, e devo tutte le volte controllare che ci siano, che io abbia i diritti, da un certo punto di vista per l'utente può essere una scocciatura, mi rendo conto, però dal punto di vista della tutela del copyright questo è invincibile quasi. Assolutamente, ma anche quella è una forma di risposta tecnologica, no? Se vogliamo. Luca, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a te, Enrico. Bentornati a 2024, continuiamo questa puntata. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di dati, di informazioni che ci sono in grandissima quantità in rete. Quando ci spostiamo con il nostro smartphone, ad esempio, lasciamo una traccia dei luoghi che visitiamo, sia tramite le app che accedono ai dati del GPS, che devo dire in pochi disattivano, ma anche tramite le antenne Wi-Fi o le antenne di telefonia mobile che agganciamo con il nostro smartphone. Ma sulla rete di noi ci sono tante informazioni che nel corso della nostra vita digitale lasciamo in rete, a volte volontariamente, a volte involontariamente, consciamente o inconsciamente. Ma devo dire che la lista di informazioni, di dati che sono disponibili in rete, dati personali, è molto lunga. Nome, cognome, sesso, email, i luoghi che visitiamo, abbiamo detto appena adesso, insomma, dello smartphone che ci traccia. Ci sono dei sistemi per determinare ad esempio il reddito, se non in modo preciso ci sono dei modi per stimarlo anche solo dai luoghi che frequentiamo. Il nostro livello culturale, da informazioni che diamo, magari abbiamo compilato una pagina web per avere informazioni. In che tipo di famiglia viviamo, quali relazioni abbiamo, dove abitiamo e in quale appartamento viviamo. Tante informazioni che si possono desumere incrociando tanti dati. Se siamo in affitto, abbiamo una casa di proprietà, che interessi abbiamo? Molti di noi lo scrivono, oppure visitano certi siti e da lì si può capire dove e per cosa spendiamo, se abbiamo un'automobile, una moto, se usiamo un mezzo pubblico. A volte queste informazioni sono anonime, cioè si sa che dietro a quello smartphone, dietro a quel computer c'è magari un uomo di 30 anni che abita in quella determinata città e che ha visitato quei particolari luoghi, ma sempre più spesso ci sono dei sistemi per associare a questi dati un nome. Di questo vogliamo parlare adesso e ci facciamo aiutare da Pepe Moder, Senior Digital Advisor e docente ai Master del Sole 24 Ore, Master Digital del Sole 24 Ore. Bentornata 2024. Grazie. I dati sono sempre più importanti e sono una sorta di moneta di scambio. È la moneta di scambio. Internet, per gran parte dei servizi, gran parte dei contenuti, è partita ed è nata su un modello di gratuità. Oggi noi accediamo al giornale che prima compravamo in edicola, accediamo gratuitamente e in qualche maniera questi contenuti devono essere ripagati. Come vengono ripagati? Con l'acquisizione di informazioni relative alle scelte e ai comportamenti delle persone, oltre che ai dati che vengono lasciati dalle persone. Noi ovviamente siamo abituati a pensare di lasciare un dato ad un interlocutore, quindi su un sito, e quel dato rimane su quel sito. In verità, nel tempo la tecnologia ha permesso di mettere insieme dati provenienti da fonti diverse, di arricchire i profili e quindi di aprire degli orizzonti di personalizzazione del contenuto, del messaggio. Quante volte ci è capitato, per esempio, di andare su un sito, poi lasciare quel sito, tornare, andare a vedere altri siti e ritrovare la pubblicità del prodotto che avevamo visto, il cosiddetto retargeting, no? È una funzione base, fondamentalmente, che associa attraverso quelli che chiamiamo cookie, associa ad un profilo, ad una persona che sta visitando un sito, un interesse verso un prodotto, verso un servizio e incomincia a seguirti per ricordarti il messaggio di possibilità di vendita, di acquisto, quindi di un prodotto o di un servizio. Certo, presumendo che tu sia interessato veramente a quel prodotto. Assolutamente. Poi non tutte le tecnologie vengono utilizzate nel modo opportuno, ci sono un sacco di errori, cioè, dobbiamo ancora... Però devo dire che la tecnologia si sta raffinando molto, molto, molto, assolutamente. Se ben utilizzata e investendo soldi, perché poi anche quello è un problema. Beh, se facciamo un paragone tra le capacità di gestire i dati e di interpretare i dati di 20 anni fa o di 15 anni fa, ma anche solo di 10 anni fa, con quelle di oggi, siamo una generazione, se non due generazioni tecnologiche avanti. Oggi ci sono software che ti permettono di riconoscere all'interno di una fotografia gli oggetti e quindi di attribuirti degli interessi. Oggi ci sono piattaforme che sanno dove sei, sanno che cosa fai, sanno che cosa ti interessa, sanno chi stai incontrando. Basta pensare, ne parleremo adesso approfonditamente anche con i nostri ospiti, basta pensare ad una tecnologia come Google Maps che sa me e te che in questo momento siamo nello stesso luogo e quando ci vede incontrarci nello stesso luogo 2, 3, 4, 5, 6 volte, questa tecnologia a monte incomincia a dire probabilmente queste persone si conoscono perché sono certo. Molto vicine l'una all'altra, no? Sì, sì, probabilmente questi sistemi sanno delle relazioni segrete, che ne so, dell'amante. Certo. Certamente. La moglie e il marito non lo sanno. E certamente. Un esempio è accaduto a febbraio, è accaduto nel 2016, di un utente francese di Uber, il quale aveva utilizzato il telefono della moglie per chiedere una chiamata, insomma, per una chiamata di un passaggio, si era poi disconnesso dalla piattaforma Uber, lì c'era un bug, quindi c'era un problema sull'applicazione. Cosa è successo? È tornato a utilizzare il suo telefono e quindi l'applicazione, l'ha usato anche per, come dire, dare un passaggio all'amante. La moglie se n'è accorta perché continuava a arrivare anche sul telefono della moglie i messaggini di ricezione della chiamata e quindi dei percorsi che dovevano essere fatti. Certo, quello era, diciamo, un errore di progettazione che poi è stato risolto, ma ci fa capire che cosa si può fare. Ti faccio una ulteriore domanda su quello che noi facciamo e i dati che noi lasciamo. Nella stragrande maggioranza dei casi tutto ciò avviene legalmente perché siamo noi che diciamo alla rete sì sì sì, utilizza pur tutto questo, accetto. Quanti di noi si fermano a leggere i termini e le condizioni di un contratto, perché si tratta di un contratto quando noi sottoscriviamo gratuitamente un servizio online? Quanti di noi si mettono a confrontare quali sono i riferimenti di quella privacy, della tal privacy del sito? Nessuno. Lasciamo i nostri dati e tiriamo avanti perché siamo abituati ad avere il servizio qui, ora e subito. È ovvio che quei dati poi in realtà noi non sappiamo che cosa ci fa quella società, a chi li dà e come verranno utilizzati poi dalla società terza. Per questo che a volte ci ritroviamo banalmente nella casella di posta email di prodotti o di servizi che tendenzialmente potrebbero anche interessarci e che, di cui non abbiamo mai avuto una sottoscrizione o che non abbiamo mai contattato. Sì, sì. Ricordo che questo è un mercato miliardario, non milionario, miliardario mondiale, multimiliardario globale. Direi. Esatto. Tra l'altro gestito, ma questo è un altro capitolo che lasciamo a chi si occupa di economia, perché questo riguarda l'antitrust o altre authority o altre istituzioni, tra l'altro un mercato presidiato da poche grosse società, che diventeranno molto probabilmente sempre più grosse e sempre più potenti, ma questo appunto è un altro capitolo, seppur molto importante. Alberto Nasciuti è l'amministratore delegato di KPI6, benvenuto. Grazie Enrico, ciao. Voi vi occupate del monitoraggio dei social media. I social media sono i social network. Monitoraggio che cosa si intende? Che cosa fate? Cioè voi controllate per raccogliere che cosa? Noi analizziamo i social media, i principali social media, per capire quali sono gli interessi degli utenti, appunto, che interagiscono con gli stessi, quali sono i comportamenti e in generale le demografiche. Quindi andiamo a leggere sui social media quello che le persone dicono, d'accordo, per profilare queste persone a scopi di marketing e di advertising. Quindi banalmente riusciamo a capire che una persona parla di un argomento, ha un bisogno, d'accordo, ha un determinato profilo e quindi riusciamo a veicolare messaggi promozionali relativi al bisogno della persona che l'ha espressa all'interno dei social media. I social media hanno livelli di privacy differenti, ognuno si comporta in modo diverso. Però diciamo che in tutti i social media c'è una caratteristica che diciamo è trasversale. Noi lasciamo sui social informazioni spesso recuperabili anche a livello pubblico, d'accordo? Quindi non tutti i dati che pensiamo siano dati che rimangono tra me e il mio amico, d'accordo, sono in realtà informazioni che rimangono appunto tra me e il mio amico, ma sono addirittura pubbliche. Ci sono dei social tipo Twitter che è apertissimo e quindi è tutto pubblico lì è tutto pubblico, social molto più chiusi come Facebook, ma che comunque hanno delle aperture, perché se io vado a pubblicare qualcosa su una pagina pubblica, la pagina pubblica del Sole 24 Ore, io posso leggere, d'accordo, questa informazione, perché dove vado a pubblicare è pubblico. Ovviamente la pagina del Sole 24 Ore è una pagina che già esprime degli interessi. D'accordo? Perché esprime degli interessi? Certo, quindi se uno ci va tutti i giorni, tu cominci a dire, ma questo è interessante. Stato magari alla finanza, sì. Eccetera. Senti, quando diciamo una persona, la profilazione viene fatta con nome e cognome e tutta una serie di dati che quindi identificano precisamente una persona, stiamo parlando di gruppi anonimi, quindi impiegati che abitano in una grossa città oppure studenti che abitano in piccoli centri. No, noi ci occupiamo di nome e cognome, quindi non ci occupiamo di dati, diciamo, clusterizzati o dati anonimizzati, ma ci occupiamo, andiamo a cercare quelle informazioni pubbliche, d'accordo, che comunque sono ricondotte ad un nome e un cognome. Sì, quindi, molto precise. Quindi, esatto. Quindi uno potrebbe sorprendersi e dice, ma come? Riuscite a associare ad un nome, ad un cognome, tutta una serie di informazioni? Intanto, che tipo di informazioni? Allora, sicuramente appunto il genere, maschio o femmina, sì. Ovviamente dal nome si deduce il genere. Certo. Okay? Quello è diciamo abbastanza facile, poi ci sono le fotografie. Poi c'è la fotografia del profilo, quindi la fotografia del profilo ovviamente definisce magari la tua etnia. Ok, questo è importante. Magari la tua fascia di età, perché oggi ci sono degli strumenti che fanno image recognition, d'accordo? Che il riconoscimento dell'immagine. Esatto, sì. Riconoscono dall'immagine la tua etnia, magari la tua fascia di età, o se in quella fotografia sei felice o infelice, ad esempio, se sorridi o non sorridi. Sì. Alberto, questi software sono, come dire, sono dei software molto particolari o sono a disposizione tendenzialmente di qualsiasi azienda? Sono a disposizione tendenzialmente di qualsiasi azienda. Diciamo che il processo è difficile da fare, cioè andare a recuperare dati, poi attaccare servizi come quello dell'image recognition, eccetera, eccetera, il processo rende complesso il lavoro che facciamo. Sì. D'accordo? Però diciamo che i software che utilizziamo sono spesso commodity, quindi sono spesso software utilizzabili da tutti. Cioè, esatto. Un po' come dire, Photoshop è disponibile a tutti. Bisogna saperlo usare. Io che sono una capra da quel punto di vista, non sarei capace... Esattamente. Di far magari cambiare una fotografia in un certo modo. Un artista, cioè un fotografo o comunque un professionista è capace. Esattamente. In più ci sono tutta una serie di informazioni che noi come nome e cognome lasciamo nel web in generale, d'accordo? Non tanto nei social ma nel web in generale, che sono recuperabili perché quando le abbiamo lasciate non ci siamo accorti che le lasciavamo in modo pubblico. Quindi partendo da un nome e un cognome noi possiamo andare a ricostruire di questo nome e cognome e tutta una serie di dati che hanno lasciato appunto nel web, quindi nei posti più lontani e posti più nascosti, dati che veramente sono molto sensibili. Mi fai degli altri, cioè, nome, cognome, numero di telefono no? Se tu hai lasciato in giro il tuo numero di telefono in un posto pubblico, da qualche parte noi riusciamo a ricondurre il tuo nome e cognome e a matcharlo e quindi a provare delle corrispondenze con... E la gente lascia il numero di telefono in giro? Ma guarda, io non lo so, io di un nome e cognome, diciamo dati 100 nomi e cognomi e link del social, secondo me riusciamo a trovare un 50-60% di dati sensibili. Cioè anche il numero di telefono? Sì. Pazzesco. Numero di telefono, studi che una persona ha fatto, lavoro che fa, email. E dopo però è l'utilizzo che le persone fanno di questi dati che rendono la cosa legale o non legale. Cioè si possono trovare questi dati, ma che l'utilizzo che ne fai, ok, definisce se la cosa è legale o non è legale. Perché ovviamente mandare una mail a una persona che non ti ha dato il consenso per inviargli una mail non è legale. Certo, Pepe? E qui entra ancora in gioco i vari termini e condizioni che noi sottoscriviamo e accettiamo quando diamo dati a terzi, no? Quando pubblichiamo i nostri contenuti sui siti o utilizziamo anche degli strumenti. Fitbit, uno di quei braccialetti che ti permette di misurare il tuo comportamento quando vai a correre, il battito cardiaco e via dicendo, quando utilizzi la sua applicazione ti chiedeva il permesso per poter rivendere tutti questi dati in forma anonima, poi vedremo che cosa significa forma anonima, per rivendere in forma anonima tutti questi dati a società che si occupano di pubblicità, no? E quindi la possibilità di sapere dove sei, per quanto tempo hai corso, magari hai messo sull'applicazione anche le scarpe che utilizzi e quindi è un dato interessante privato che stai condividendo con qualcuno che magari lo rivenderà un altro produttore di scarpe per farti un'offerta. Quindi ecco da lì da dove viene fuori quella mail che ti proponeva un paio di Nike e tu usi le Saucony per correre, no? Alberto, senti, sempre a proposito di come vengono raccolti questi dati, vengono fatti con la rete a strascico, cioè in forma massiva o anche puntualmente se un, che ne so, c'è una ricerca particolare? I dati possono... Allora, la nostra piattaforma che fa ascolto funziona sostanzialmente in due modalità. Cerchiamo persone che sui social hanno scritto determinate parole, ok? Cerchiamo persone sui social che... quando scrivevano determinate cose erano in un determinato luogo. Ci sono dei social geolocalizzati, d'accordo? Twitter, ad esempio, che è il più libero, ha un 4-5% di tweet geolocalizzati, quindi paradossalmente io potrei cercare persone che hanno fatto tweet, d'accordo, in un determinato posto. Con la geolocalizzazione del telefono siamo precisi al metro, quindi se io volessi ascoltare le persone che twittano in Piazza del Duomo, ok, metterei l'ascolto su Piazza del Duomo. Oppure pensate a a un'applicazione commerciale, d'accordo, se io volessi ascoltare quello che le persone dicono all'interno di una fiera o di una manifestazione, d'accordo, io mi metto lì quel giorno lì e ascolto le persone che col loro cellulare, in questo caso twittano, perché stiamo parlando di Twitter, poi dopo ci sono altri modi per farlo anche su altri social, twittano in quel luogo, in quel momento. Certo, quando tu dici ascoltare, non intendiamo ascoltare, cioè con la voce, intendiamo monitorare, sì, controllare. Sì, poi a proposito di ascoltare con la voce, mi viene da pensare, ci sono delle applicazioni oggi che chiedono il permesso di accedere al tuo device anche con l'applicazione spenta, d'accordo, e quindi fondamentalmente accedono alla tua posizione geografica anche con l'applicazione spenta, accedono al tuo microfono o accedono alla tua telecamera. Mi viene da pensare, ho visto un'immagine qualche tempo fa di Mark Zuckerberg, che è una fotografia di Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, che aveva il suo laptop aperto davanti alla fotografia, dove ho notato che sulla telecamera aveva messo del nastro adesivo. Perché ha fatto questo, ce lo dovremmo chiedere. Allora Pepe, qui è importante sottolineare una cosa. Questo esempio potrebbe far pensare a molti ascoltatori agli hacker. Cioè uno dice, ha messo il nastro adesivo perché qualcuno potrebbe entrare in modo illegale, illecito nel suo computer e quindi attivare la videocamera. No! No, è tutto legale, perché siamo stati cioè, noi... Potrebbe essere legale. Potrebbe essere legale. Diciamo che siamo stati noi tendenzialmente ad aver dato il permesso alle applicazioni, ai software, ai siti, quindi ad entità terze, a poter accedere ai nostri strumenti, alle nostre informazioni, ai nostri dati, ai nostri comportamenti. Sì, Alberto, vuoi aggiungere una cosa? Sì, poi non è sempre una persona che sta dietro all'applicazione che vede quello che fai o quello che dice. Spesso sono macchine, intelligenza artificiale che coglie magari parole o immagini, d'accordo? Non c'è uno che guarda da dietro, d'accordo, quello che fai sì. Ci sono strumenti magari automatici che fanno Per quello che molti dicono, a me che me frega, tanto ci sono delle macchine che fanno tutto ciò, Pepe. Tutto questo perché? Perché più le aziende sanno quali sono i nostri bisogni o quali potenzialmente possono essere i nostri desideri, più riescono a intercettarlo in anticipo, più lo sanno prima della concorrenza, più sono in grado di arrivare da te, entrare in contatto con te e venderti un prodotto o un servizio. Tutto questo sta in piedi esclusivamente per questo. Certo. Francesco Porri è l'amministratore delegato di 4Top e benvenuto a 2024. Grazie. Voi vi occupate di performance, quindi utilizzate i dati per far sì che la pubblicità sostanzialmente, ma forse non solo la pubblicità, poi ce lo spiegherai, arrivi là dove deve arrivare, precisamente. Esatto, cioè obiettivamente l'obiettivo diciamo di tutta l'attività, di tutta questa raccolta dati è parlare solo con le persone giuste. Perciò devo vendere un prodotto o ho bisogno di generare un appuntamento per la mia rete commerciale, so che magari ho bisogno di parlare con chi guadagna più di 100.000 euro l'anno, perciò ho bisogno di chiudere il cerchio alle persone con cui fare comunicazione e colpire. Perciò usiamo questi dati per selezionare il target più preciso. Sì, sì, l'obiettivo più preciso. Tu puoi soddisfare qualsiasi richiesta che arrivi dal mercato, cioè questi dati effettivamente sono così tanti e così precisi? Sono tanti e tanto precisi, sono tanti perché oggi si può avere veramente il reddito con le fasce di reddito di quanto una persona guadagna, si può avere se ha un certo tipo di risparmio o meno da parte, se ha una o più macchine, la composizione del nucleo familiare, la tipologia di casa, nel senso se sono in una villetta a schiera in un appartamento, se sono in affitto la casa è di proprietà, cioè sono veramente tanti i dati che si possono ottenere. Soprattutto per pochi centesimi, perché poi sono disponibili con pochi centesimi, fino ad arrivare ad avere i dati più banali, per cui i dati dietro a un cookie, a un dato tecnico, per cui ciò che ci viene lasciato sul nostro computer quando navighiamo e andiamo su un sito, su quel cookie possiamo sapere il sesso e lo sappiamo in un modo così preciso. Faccio un esempio che è emblematico. Uno dei principali provider di posta elettronica in Italia ha fatto un test per capire quanto fossero attendibili questi dati da coloro che vendono i dati, perciò da un fornitore di dati. Con una cosa banalissima, per cui verifichiamo il sesso delle persone che hanno aperto la mia posta elettronica. Hanno trovato uno scostamento del 30%, perciò un dato significativo. Come prima verifica hanno detto, vediamo un attimo, facciamo una verifica sul nome, se Francesco è Francesco o Francesca, perciò se dietro un sesso maschile c'è un nome femminile. visto che il dato era molto vicino a ciò che forniva il fornitore di dati e non al dichiarato, hanno fatto un invio di newsletter promozionali con un'offerta molto interessante per il mondo femminile e a quelli che erano mappati come uomini, un'offerta molto interessante per il mondo maschile. E c'è stata un'impennata delle aperture di quelle email rispetto ai normali tassi di apertura. Tanto che oggi, quando io mi registro e apro la mia posta elettronica, il dato, il sesso stimato, perciò fornito da un fornitore terzo, è il dato più attendibile rispetto al sesso dichiarato. Cioè, tu mi stai dicendo che la gente quando si registra dichiara il falso? Sto dicendo che magari le persone sono distratte, non stanno a fregare, a spostare il bottone maschio, uomo, donna, maschio, femmina. Sono lì, banalmente, hanno messo la loro email e... Questo però mi dice anche un'altra cosa, perché se no non avessi fatto questo esempio, perché non è tanto interessante che la gente è pigra, cioè è interessante capire che ci sono degli strumenti che riescono a stimare molto più precisamente di quanto io dichiaro. Esatto, il fatto è che al di là di ciò che io vado a dichiarare, il dato è attendibile su tutta una serie di ulteriori dati. Ora, come dicevamo un attimo fa, è un dato anonimo, perché è un dato dietro a un cookie, per cui un piccolo pixel che è stato messo sul mio computer quando navigo. I cookie hanno una storia di circa 30 giorni, perché solitamente le persone cancellano, cambiano computer. Cioè, le persone non sanno nemmeno che ci sono i cookie, tanti, diciamo la tanti verità. Non lo sanno, però magari c'è chi usa browser diversi, cioè faccio magari una navigazione con il mio cellulare, sì. Col tablet, col computer di lavoro, e ho cookie diversi. E qui intervengono altri data provider che mi collegano, mi dicono: guarda, questo cookie che hai preso su questo telefono è della stessa persona che è sul computer, perché hanno acquisito dati, hanno i profili, per cui possono unirmelo e io passo da avere accessi separati ad avere gli accessi della stessa persona, per cui unisco. A quel punto il passo diventa veloce. Se sono interessato a chi ha più di una macchina, guadagna più di 100.000 euro e magari vive a Milano, faccio una advertising, faccio un banner, una pubblicità mirata a quella persona a cui do un'offerta, regalo qualcosa. Senti, di particolare. Come fai a sapere che una persona guadagna un tot, abita nel tal posto, magari ha una casa di proprietà, eccetera? Allora, ci sono data provider, appunto, che vendono questi dati in modo a prezzi eccessivamente, assolutamente eccessibili. Si parla di frazioni di centesimo per utente, per addetto. E sono legali questi dati? Sono legali perché sono statistici. Il fatto è che quando il dato statistico è affidabile sopra il 95%, è preciso. Va al di là del dato statistico. Sì, però fammi capire come fai a capire, cioè come funziona come, il sistema. Come raccolgono il dato. Noi magari ci muoviamo con il nostro cellulare e costantemente ci agganciamo a dei wifi pubblici. Essendo pubblici, i dati sono pubblici, sono banche dati pubbliche. Per cui quell'ID, il collegamento del tuo cellulare, ci fa sapere come si muove. È un dato anonimo, però so a quel punto i percorsi che fa. Ci sono, come dicevamo prima, dei software che fanno questa analisi e in base ai luoghi che frequento, se sono ai Parioli, probabilmente guadagno più di 10.000 euro. E se sono ai Parioli, non temporaneamente, ma se tutte le sere se tutte torno le ai Parioli. Sere torno ai Parioli, se tutte le sere lavoro all'Euro e torno ai Parioli la sera, ok. Inizio a capire un attimino come si comporta la persona. Inizio a avere questi dati. O magari se il computer di casa esce con un IP, perciò con un identificativo, che è su quella strada, all'interno di quell'edificio. Tanto che oggi i dati sono affidabili a blocchi circondati da strade, proprio a non dico a building vero e proprio, a palazzo. Sono geolocalizzati. Proprio. Sono geolocalizzati con questa precisione. Beh, Enrico, immagina però con Google Maps, no? Google Maps utilizza il GPS ha una precisione di un metro, quindi se io ascoltassi, nel senso che monitorassi come tu ti muovi in casa, con buona precisione io potrei stimare la grandezza in metri quadri di casa tua. E quindi, sapendo la zona, sapendo la grandezza in metri quadri, sapendo che lavoro fai, e quindi attribuendo ad un certo livello di stipendio, io ti posso dire se, se la casa nella quale abiti tu sei in affitto oppure tu sei, per esempio, di proprietà. Sì, no? Francesco. Poi considerate che qui parliamo di alcuni dati statistici. Negli Stati Uniti già oggi Mastercard vende i dati. Per vendere i dati vuol dire spending, cioè quanto spendo e con che frequenza, è un dato, come alcune compagnie di assicurazioni. Sì, Pepe, a proposito di assicurazioni. Beh, le assicurazioni hanno sempre, come dire, come principale elemento la definizione del profilo di rischio di un potenziale cliente, no? Tutte le assicurazioni in un mondo ideale vorrebbero avere come clienti solo quelli che non combinano mai guai, perché ovviamente non dovrebbero pagare poi il premio. Quindi stanno studiando, ma in maniera estremamente seria, la possibilità di integrare i dati comportamentali delle persone, del potenziale cliente, con i dati statistici. Ad esempio, noi sappiamo, per chi ha magari figli attorno ai 20 anni, che il costo dell'assicurazione auto per un ventenne maschio è molto più elevato di una signora agée di 60 anni, che magari vive in provincia. Ecco, ma se noi del ventenne sapessimo non solo i dati censuari, ma sapessimo anche quante volte va nei locali, quante volte torna di notte a tarda ora, se fa delle fotografie nei locali con alcolici o superalcolici in mano, ecco, potremmo incominciare per esempio a definire un profilo di rischio alto o basso. Quindi se non va nei locali o ci va poche volte, non ci sono fotografie che possono fare pensare di una persona che guida magari, come dire, dopo aver alzato un pochino il gomito, ecco che diminuisce il profilo di rischio e quindi quello diventa un cliente interessante, quando prima invece solamente su base censuaria non lo era. Certo. Francesco, non è fantascienza. No, tutto, si può già fare. Estremamente facile, estremamente alla portata. Per di più, come dicevo prima, i dati si recuperano con frazioni di centesimi, perché oggi tutti questi dati che riteniamo altamente sensibili sono alla portata di tutti. Le piattaforme ci sono, ok, come diceva prima Alberto, bisogna saperle usare, ok, ma è secondario, sono a disposizione. Oggi si può fare veramente tanto. Oggi il valore sta iniziando a diventare il profiling. Raccolgo tutta una serie di dati sulla persona che mi interessa, poi un domani alla persona legherò un nome e un cognome, ma intanto l'ho qualificata. Certo. Pepe? Un punto importante, allora incominciamo a parlare allora di quali sono però gli aspetti anche positivi di tutta questa raccolta dei dati, perché poi non ci sono solamente aspetti negativi, no? Bisogna stare un pochino attenti, bisogna rendersi conto, essere consapevoli che i dati che stiamo lasciando possono diventare pubblici. Però, per esempio, per le aziende il grande vantaggio, abbiamo parlato prima di pubblicità, ma anche tutta la parte di servizio al cliente, arricchire il profilo di una persona che ha comprato da noi un prodotto e di cui sappiamo solamente nome, cognome e numero di telefono. Ecco, sapere questa persona, quali sono i suoi comportamenti, le sue preferenze, i suoi hobby, e quindi potergli fornire un servizio magari più customizzato, più puntuale. Immaginiamoci un produttore di pneumatici che non sa quanti chilometri percorre o dove va il suo cliente. Il potergli offrire un servizio di assistenza, sapendo che il cliente spesso va in montagna, utilizza la macchina e fa 50-60 mila chilometri l'anno, gli permette di avere un quid in più rispetto a un concorrente. Sì. Avete alzato la mano tutti e due, quindi Francesco poi Alberto. Prego. Con lo stesso principio, le aziende spesso vogliono premiare i clienti interessati, i clienti in target, perciò hanno dei plafond per dare omaggi, accessi a eventi particolari, premi e via dicendo. A quel punto, avere inquadrato quale è l'utente giusto ci permette di dare l'omaggio alla persona che effettivamente vogliamo premiare, perciò ci permette di arricchirgli l'esperienza e di fargli vivere meglio tutta una serie di situazioni o di suoi desideri. Sì, sì. Quello dell'omaggio è un trucco che viene utilizzato anche per migliorare la precisione del dato, cioè quando io sono un po' confuso dico vabbè, adesso ti mando una bella mail e ti do un premio così mi dai dei dati. È l'inizio, quando non so bene chi sia posso mandare una mail se ho l'autorizzazione a mandare la mail, o se no banalmente faccio vedere un bel banner a premio garantito, perciò un omaggio solo per te, vieni e registrati. Nel momento in cui mi dai nome e cognome, email e l'indirizzo in cui ti posso spedire il regalo, ho chiuso tutti quei dati che avevo stimato. Perciò tutti i dati stimati anonimi in quel momento diventano puntuali e non più anonimi, anche perché mi hai lasciato la liberatoria. Certo. Facciamo alcuni esempi emblematici di quello che sta succedendo. Prima avete citato il GPS, che è uno dei sensori che maggiormente viene utilizzato oggi perché permette di geolocalizzare quello che noi facciamo, dove siamo, e quindi dalla geolocalizzazione poter fare tutta una serie di indovinare tutta una serie di informazioni. Ad esempio, se noi stiamo tutta notte in un certo luogo e tutto il giorno in un altro luogo, automaticamente un'app potrebbe dire: ah, quello è il luogo dove abiti e quello è il luogo dove lavori. Così come appunto se noi giriamo da una città all'altra si capiscono molte altre cose. Mi viene in mente ad esempio, perché parlo spesso con gente che produce sensori, sensoristica all'interno degli smartphone, ci sono anche i sensori di pressione, e ultimamente si riesce a capire, poi non so se vengono utilizzate queste tecnologie, sicuramente i servizi segreti lo fanno, il sensore di pressione ci dice a che piano siamo di un palazzo, con una precisione di metri. Io volevo fare anche una piccola considerazione, ma queste apparente, tra virgolette, violazioni di privacy, d'accordo, che evidentemente migliorano la nostra vita, siamo in grado, noi abbiamo veramente il desiderio di negare queste intrusioni da parte di queste grandi aziende? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, perché sono tanti i benefici che secondo me sono legati a questo, ripeto, tra virgolette, apparente violazione della privacy. Dalla cosa più banale, conoscere il traffico che ho davanti a me, perché Google Maps ti dice che tra 500 metri c'è traffico e quindi devi girare a destra e quindi migliorare il tuo tempo di percorrenza. Questo lo può fare solo se accede al tuo GPS, ovviamente. Quindi quello che mi chiedo io è: questo mondo della privacy, queste violazioni che spesso vengono... No, ma non sono violazioni, diciamo, questo uso massiccio che viene fatto. Esatto, ha dei benefici che secondo me sono maggiori diciamo, questa è un'opinione diffusa, ovviamente, poi voi siete del settore, quindi non potete dire altrimenti, però come diceva Pepe bisogna essere consapevoli di quello che succede. Francesco, possiamo fare un ultimo esempio, ultimo minuto, per dare ancora qualche indicazione? Altre indicazioni. Abbiamo veramente dati ovunque, di ogni tipo. Alcune compagnie telefoniche, anche in Italia, oggi vendono a centesimi il fatto che la connessione con cui navigo sia privato business. Perciò se voglio parlare con un professionista, sicuramente avrà una connessione business. Perciò se parlo in ambito food, e devo cercare non tanto l'appassionato di cucina, ma il cuoco, il ristoratore, probabilmente dovrò fare advertising a chi ha una connessione business e mi permette di fare un grosso taglio dell'utenza. Perciò oggi è veramente tutto a disposizione e ci permette di fare una grossa frammentazione. Per cui non è più il momento in cui si spara una comunicazione a largo spettro, ma si va molto puntuali. E questo ci permette di essere precisi per offrire il servizio giusto alla persona giusta. Certo. E gli smartphone hanno cambiato veramente tutto. Hanno cambiato tutto, perché appunto hanno tutti i parametri di geolocalizzazione e di frequenza di utilizzo. Francesco, una domanda al volo flash: ma questo tipo di servizi è solo per le grandi imprese o anche le piccole e medie imprese possono accedere a questo tipo di precisione? Anche le piccole imprese, perché ormai non occorrono più piattaforme da centinaia di migliaia di euro, ormai con poche decine di migliaia di euro si attivano questi servizi, perciò è veramente alla portata di tutti. Cioè, diciamo, non dell'azienda artigianale. Non è dell'azienda artigianale, ma nel momento in cui faccio una pubblicità di qualunque tipologia su una rivista, inizio a spendere inizio a spendere i 30, i 50 mila euro l'anno, ok, sono alla portata di questo tipo di servizi. Molto bene, grazie ai nostri ospiti, grazie a Pepe Modera, a presto Pepe, ciao. Grazie. Grazie. Grazie anche ad Alberto Nasciuti di KPI6, a presto Alberto. Grazie, grazie. E a Francesco Porri di 4Top, a presto. Grazie. Prima di chiudere questa nostra versione podcast del nostro programma di questa settimana, un esempio che mi è piaciuto, non abbiamo fatto in tempo a raccontarvelo perché me l'hanno raccontato gli ospiti dopo che abbiamo finito la registrazione. Azienda che vende skateboard, che analizzando la rete e il comportamento degli utenti si è resa conto di avere degli accessi al proprio sito internet mobile da smartphone molto lunghi, persone che stavano 20-30 minuti a guardare sul sito internet gli skateboard. E poi in altri momenti, ma spesso negli stessi luoghi o comunque molto vicini, degli accessi abbastanza veloci in cui poi lo skateboard veniva comprato. Quindi da una parte uno smartphone che accede al sito web, guarda gli skateboard, guarda prodotti ma non compra niente, e dall'altro accessi invece da un computer molto più brevi, 2-3-5 minuti, con un acquisto finale del prodotto. Facendo delle analisi si è scoperto che erano i figli con lo smartphone in casa a controllare, a guardare il sito internet, ma non potendo poi acquistarlo perché non hanno soldi o comunque strumenti di pagamento, accesso agli strumenti di pagamento, e l'altro invece era il genitore, probabilmente il padre, che dopo che il figlio gli aveva fatto una testa così andava sul sito internet e comprava lo skateboard. Che cosa succede sfruttando questo tipo di conoscenza, quindi sfruttando questo tipo di dato, che magari può essere anonimo, senza un nome e un cognome, ma geolocalizzando vedi da una parte uno che naviga sul sito, dall'altra parte uno che compra, puntualmente hanno fatto una serie di analisi e a fronte della navigazione di una persona da smartphone prolungata viene mandata pubblicità targetizzata, magari nello stesso posto, nella stessa area, a una persona che molto probabilmente, secondo i dati, secondo la statistica, è il genitore o comunque rientra nell'ambito possibile di un profilo di un genitore, e gli viene proposta la pubblicità, cioè un consiglio dicendo: guarda che questo potrebbe essere il regalo per tuo figlio. Questo è uno dei tanti esempi, ma insomma di esempi se ne potrebbero fare molti. È un tema che va approfondito, su cui torneremo sicuramente. Grazie a tutti per l'attenzione, scrivetemi a 2024@radio24.it. Magari se siete esperti di questo tema di cui abbiamo parlato, è un tema bellissimo, molto interessante, per certi versi affascinante, per certi altri preoccupante, insomma ci sono tanti tagli che possiamo approfondire nelle prossime puntate. È tutto, ci risentiamo la prossima settimana, potete raggiungermi attraverso la email, Facebook oppure Twitter, non dimenticate di consigliare il super podcast di 2024. Appuntamento alla prossima settimana.